Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio. La stretta, no, tra le tante novità portate dalla manovra finanziaria approvata nei giorni scorsi appunto dal Parlamento, tra le tante novità c'è anche un giro di vite molto importante sull'evasione fiscale. Un giro di vite che mira a recuperare una quota maggiore del sommerso che ogni anno in Italia si aggira intorno a quota 120 miliardi di euro. Si calcola una cifra di questo genere, ma per qualcuno si tratta di una cifra persino in difetto. La stretta introdotta dal governo si concentra sull'inasprimento delle pene, sull'abbassamento delle soglie di evasione che comportano l'effettivo compimento di un reato. Quindi sarà molto più facile, tra virgolette, in questo senso commettere appunto un reato di dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione o dichiarazione infedele. È prevista più severità nei confronti delle cosiddette società di comodo e verranno dati più poteri all'Agenzia delle Entrate, che potrà svolgere più agevolmente i suoi controlli, e anche ai comuni. Questi ultimi potranno incassare il 100% dei frutti della lotta all'evasione legata agli immobili sul proprio territorio, il che potrebbe rendere, almeno lo speriamo, senz'altro più serrati ed efficaci i controlli. Ci sono però anche novità importanti che riguardano gli scontrini fiscali, pagamenti in contanti e i rischi che corre chi nel 2002 ha aderito al condono fiscale e poi ha fatto il furbo e non ha ancora pagato la cifra dovuta. Ho detto 2002, in realtà l'ultimo condono è stato poi 2 anni fa, no? Giovanni Parente, buongiorno, lo salutiamo subito, non ha dormito qua, anche se abbiamo fatto insieme la puntata sull'IVA lunedì scorso, ma in realtà l'ultimo condono appunto è stato di pochissimo tempo fa. Cioè, certo Deborah, buongiorno a te, buongiorno ai ascoltatori. E quindi in sostanza chi ha fatto il furbo e non ha ancora pagato appunto la cifra dovuta, magari ha pagato solamente la prima tranche e non si è messo in regola con la seconda, adesso potrà essere perseguito in maniera più serrata. Allora, oltre a Giovanni Parente, questa mattina con noi anche Antonio Iori, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, che è uno degli autori della nuova mappa dei reati tributari, che è la guida completa in edicola oggi con il Sole 24 Ore su questo argomento. Iori, buongiorno. Buongiorno. Grazie di essere con noi anche a lei naturalmente. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666 il numero per i vostri sms, oppure scriveteci anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Diamo un'occhiata alla borsa prima di partire su tutte queste novità che sono sicuramente importanti e soprattutto sono molto delicate. La borsa oggi è prevalentemente negativa, almeno questo in Europa. Da questa mattina invece più incerta Milano, che passa da una parte all'altra della parità con grande facilità. Adesso ritorna ad essere in flessione dello 0,3% sul FTSE MIB, mentre Parigi e Francoforte perdono un punto, Londra meno 0,16%, come avete sentito nel giornale radio. Oggi giornata di attesa sia per la riunione della Banca Centrale Americana, iniziata ieri, che stasera dovrebbe stabilire cosa intende fare, non tanto sui tassi di interesse che verranno mantenuti invariati al livello attuale fra lo 0 e lo 0,25%, ma se introdurre nuove misure di stimolo monetario per l'economia a stelle strisce. Potrebbe essere varata una operazione che in gergo finanziario tra gli addetti ai lavori è conosciuta come Operation Twist. Si potrebbe decidere di aumentare la scadenza dei titoli di Stato in possesso da parte della Federal Reserve per tenere bassi i tassi di lungo periodo. Lo sapremo solamente stasera dopo le 8:15 ora italiana. A Milano il titolo in forte crescita, Fiat Industrial più 4,38, Terna più 2,44, Impregilo più 2,43, Snam più 1,22, mentre scende Fiat SPA, che ha avuto il downgrade di Moody's poco fa, lo avete sentito in diretta nel giornale radio. Il titolo perde quasi 3 punti, tra gli altri ribassi 2 punti in meno per UbiBanca, per Enel Green Power, 1,5 punti di ribasso per il Banco Popolare, per Mediaset e per Pirelli. È tutto per la borsa, andiamo al tema di stamattina. Come avete sentito nelle nostre anticipazioni, dall'ultima manovra, mano pesante contro l'evasione fiscale. Noi soprattutto speriamo che dia qualche risultato. Sentiamo la nostra scheda. 120 miliardi di euro. Si aggira intorno a questa cifra ogni anno l'evasione fiscale in Italia. Più del doppio del valore dell'intera manovra finanziaria approvata la scorsa settimana da Camera e Senato, che al suo interno comprende anche alcune misure messe a punto proprio con l'obiettivo di agire più duramente contro il sommerso. Per chi evade scatteranno più facilmente le manette. È vietata infatti la sospensione condizionale della pena in caso di evasione superiore al 30% del fatturato e ai 3 milioni di euro. Passa da 77.000 a 30.000 euro la soglia che fa scattare i reati di dichiarazione fraudolenta o di omessa dichiarazione e per il reato di dichiarazione infedele scende da 103 a 50.000 euro. Verranno dati più poteri ai comuni e l'Agenzia delle Entrate potrà controllare preventivamente i conti correnti senza aprire un procedimento di accertamento ed elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo. Prevista anche una stretta sulle società di comodo e non ci sarà vita facile per chi nel 2002 ha aderito al condono senza più dare sue notizie e pagare. Sarà costretto a versare il dovuto al fisco entro il 31 dicembre. Scende inoltre da 5.000 a 2.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e sarà molto più rischioso per gli esercizi commerciali non emettere lo scontrino. Secondo Luigi Magistro, direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, le nuove norme saranno un deterrente formidabile, anche in vista della scadenza del 30 settembre per la consegna del modello unico. Non resta che sperare che, nell'interesse di tutti, questo giro di vite possa davvero portare risultati concreti nella lotta all'evasione fiscale. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Poi vi spiego anche perché sono andata in confusione quando avevo anticipato appunto che ci sono rischi più alti che corre chi nel 2002 ha aderito al condono fiscale, e avevo precisato appunto che anche l'ultimo condono è stato invece molto più recentemente. Chi ha fatto il furbo e non ha ancora pagato la cifra dovuta in quel momento appunto rischia adesso di pagare delle sanzioni ben più pesanti. Poi entreremo nel dettaglio anche su questo. Partiamo però da un po' di ABC. Antonio Iorio sul Sole 24 Ore, spiegando tutte le novità della manovra relativamente alle nuove misure contro l'evasione fiscale, aveva parlato di un vero e proprio restyling del regime penale tributario introdotto nel 2000. Dottor Iorio, nell'impianto complessivo le novità sono sostanziali, ma gli esperti quali considerano di portata maggiore? Dov'è finito Antonio Iorio? Iorio, eccoci. Ha sentito la domanda? Assolutamente sì, ma sicuramente per quanto riguarda i reati hanno un effetto deterrente notevole. Il rischio in realtà è che si potrebbero intasare le procure, perché per quanto possono essere deterrenti, stiamo parlando di reati che nella maggior parte dei casi verranno scoperti nei prossimi anni. Quindi immaginare che abbiano un effetto oggi è obiettivamente molto arduo. Diciamo, potrebbero avere più che altro una funzione preventiva, ecco, per essere onesti. Una funzione di deterrente, come per esempio quella che potrebbe riguardare, leggo subito uno dei primi messaggi che ci sono arrivati questa mattina, un ascoltatore che denuncia: perché non parlate mai dei dentisti, fino ad ora avrò pagato 25.000 euro in nero, e poi aggiungo gli artigiani con ville e poderi, falegnami, piccole imprese edili, elettricisti. In realtà per queste figure che perseverano in questa pratica di fare lo sconto al proprio cliente a patto che non chieda questo la fattura per la prestazione, appunto c'è una misura prevista, Giovanni Parente. Esatto, è stata prevista una sanzione aggiuntiva, che è quella della sospensione dall'albo per gli iscritti ad albi e ordini professionali, però devono essere compiute 4 violazioni in 4 distinti giorni. Ecco, a questi 25.000 euro direi che mette insieme forse un po' più di violazioni compiute in più sedute da parte di questa persona. Come potrebbe fare poi questo cliente per denunciare l'operato di questo dentista? O fa il diratore, chiama la guardia di finanza e prova a dirglielo. O chiaramente si rivolge all'Agenzia delle Entrate. Vabbè, insomma, seconda cosa invece, Giovanni, andiamo anche all'altra questione di cui ci chiede un chiarimento un ascoltatore. Cercate di chiarire definitivamente quando entreranno in vigore queste norme e se sono retroattive, perché lui ritiene che ci sia grande confusione sui tempi. Forse si riferisce al fatto che magari per molti accertamenti si deve andare indietro nel tempo, ma in ogni caso la legge è entrata in vigore da sabato scorso. Facciamo chiarezza. Tutte le novità sui reati, lo scrive bene anche Iori oggi sulla guida in edicola, riguardano esclusivamente i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della conversione della manovra di Ferragosto, quindi stiamo parlando da sabato 17 settembre in poi. Per quanto riguarda la questione invece annosa del raddoppio dei termini di accertamento, vale a dire se, se il fisco, la guardia di finanza, l'agenzia delle entrate scoprono una violazione che ha anche un effetto penale, quindi insomma si superano le soglie di punibilità penale, e trasmettono alla procura il fascicolo con la violazione, il fisco guadagna automaticamente 4 anni in più per accertare le violazioni, ma sempre compiute su un piano comunque di violazione di imposta. Stiamo parlando di due piani completamente diversi. Speriamo di aver fatto chiarezza ai nostri ascoltatori. Io intanto stavo con grande curiosità cominciando così a spulciare le domande che ci arrivano all'800240024, ma anche al numero degli SMS. Il primo ascoltatore che in realtà ci ha telefonato questa mattina, direi di non sentirlo direttamente, ma rivolgo questa domanda a Giovanni, che so che ogni tanto qualche monitoraggio su questo lo fa. C'è chi, come dire, giustifica la propria scorrettezza nei confronti del fisco denunciando appunto un carico fiscale troppo elevato per individuo, per singolo contribuente, e appunto Riccardo all'inizio della trasmissione voleva chiedere quant'è il carico fiscale di una persona che paga tutto. Giovanni, elevatissimo in Europa, credo che siamo tra i più elevati, siamo tra i primi 2-3 in Europa. Attenzione però, cioè nel senso, ce la battiamo con paesi che hanno livelli di welfare, di spesa sociale molto più efficienti dei nostri. È chiaro che se sommiamo pressione contributiva, quindi quanto paghiamo insomma in termini di contributi previdenziali e assistenziali, e pressione fiscale, molte volte si supera la fatidica soglia del 50%, e quindi molto spesso, soprattutto per chi fa impresa, diventa difficile operare in queste situazioni. Ovviamente fatto il racconto del dentista che si fa pagare in nero, sono partiti centinaia, non dico centinaia perché non siamo ancora a questi livelli, ma decine di messaggi ovviamente su queste questioni che sono molto sgradevoli, ovviamente molto frustranti perché li ascolta, e un ascoltatore dice anche come la mettiamo con la complicità del cliente. Io la fattura al dentista la chiedo, Max, è quello che è successo a me, guardi, l'ho raccontata mille volte l'episodio della ristrutturazione della mia soffitta con il muratore a cui avevo chiesto il lavoro che mi guardava allibito perché gli ho chiesto appunto la fattura. Qua stiamo parlando di cifre ben inferiori, Giovanni. No, però sulle ristrutturazioni qui stiamo parlando di un'altra cosa, il tema, sì lo so, la ristrutturazione perché hai lo sgravio fiscale, però ovvio che lo chiedi, lì. Ma quella no, per la soffitta non mi serviva in realtà, avrei potuto tranquillamente risparmiare la metà di quella cifra, certo, facendomela pagare in nero, ma per quale motivo lui deve guadagnare in un giorno di lavoro quello che un'altra persona guadagna in un mese? È assolutamente impensabile insomma che ci siano queste sproporzioni, insomma, di chi dichiara tutto puntualmente e chi invece può permettersi di non dichiarare nulla. Ma il cliente che persevera e continua a pagare in nero il dentista ci va di mezzo se non lo denuncia? Assolutamente perseguibile, sì, da questo punto di vista sì. Insomma, benissimo. Eccoci ritrovati in diretta. Oggi Salva Danaio affronta le novità sulla lotta all'evasione fiscale introdotte dalla recente manovra economica. Ce ne sono tante, c'è soprattutto un inasprimento delle pene, l'abbassamento delle soglie di evasione che comportano l'effettivo compimento di un reato. Per cui attenzione, se prima pensavamo di evadere il fisco per un tot, adesso invece rischiamo appunto molto prima. Sì, l'ho detto in maniera un po' banale, i nostri esperti ce la spiegheranno sicuramente un po' meglio. Allora, c'è una domanda di Stefano da Roma che voglio rivolgere subito ad Antonio Iorio, per la verità su un tema che non avrei pensato di affrontare questa mattina perché lo ritenevo un po' complesso, e invece vedo che la prima curiosità riguarda proprio le cosiddette società di comodo. Allora sentiamo Stefano da Roma, poi ci facciamo spiegare subito dal nostro esperto fiscale. Stefano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Senta, la mia domanda è questa. Nella nuova normativa che regola le società di comodo nella finanziaria, è prevista o meno la possibilità che queste possano essere sciolte senza aggravi, senza costi, senza spese, in modo da poter riportare in un alveo un po' di normalità tutto quello che è stato fatto finora dalle società di comodo? Poi se posso un'altra domanda, ma esula un pochino, ed è sulla stretta che voi state dicendo verrà fatta sugli evasori eccetera eccetera, che è logico, sono d'accordissimo, ci mancherebbe, però se noi pensiamo che la soluzione possa essere risolta con uno sviluppo economico, no? Con una rimessa in moto di tutto quello che sono i consumi, le possibilità delle aziende di investire, come possiamo non renderci conto per esempio che oggi le piccole aziende sono tutte quante oberate di debiti verso lo Stato, primo fra tutti verso la Gerit, no? Sì. Cioè io sentivo proprio nella vostra radio, quindi questo lei dice le giustifica ad evadere, visto che è come una sorta di ritorsione nei confronti dello Stato? No, assolutamente. Io quello che voglio dire è questo: oggi sappiamo che è alcuni anni che se un negozio, una piccola azienda non paga la tassa, o evade un pochino, è perché non ha soldi in tasca, ma non tanto evade. Vabbè, diciamo che non è sempre così, Stefano, però ammettiamo la buona fede pervada l'operato di tutti i commercianti di cui sta magari citando lei e che non emettono gli scontrini fiscali perché non hanno appunto poi le tasse per pagare, non hanno poi la possibilità economica di pagarci le tasse sopra. Non volevo dire questo, mi sono confuso. Volevo dire, facendo una dichiarazione dei redditi reale, alla scadenza la piccola azienda molto spesso non ha i soldi per pagare la tassa. Questo è un dato di fatto, come non ha i soldi per pagare la multa, come non ha i soldi per pagare tanti altri orpelli. Ora, quando queste cifre arrivano alla Gerit, mi diceva proprio la vostra radio la settimana scorsa che certe volte subiscono un aumento anche del 120% fra spese, interessi, aggravi. Allora, come si può pensare, dico io, che un'azienda oberata da questo tipo di debiti pensi e crei uno sviluppo economico? Stefano, la ringrazio, devo salutarla prima cosa perché io la ringrazio per tutta la sua considerazione. Salvadanaio non è il luogo per tutte le, come dire, perplessità e polemiche anche sui temi che si affrontano. Noi siamo un po' più di servizio, ci sono altri contenitori appunto che ampliano il dibattito. Detto questo, questa è la radio in qualche maniera anche come il Sole 24 Ore di Confindustria, le posso assicurare che qua siamo perfettamente consapevoli del tema del quale stiamo parlando. Giovanni, ti chiedo un commento, se vuoi poi vado alle società di comodo appunto con il nostro esperto, con Antonio Iori. Intanto, che cos'è la Gerit che citava l'ascoltatore? Ah, ecco, quindi la gente della discussione. Quindi si riferiva a questo e, insomma, come dire, effettivamente se il carico fiscale del contribuente che paga tutto è pari al 54-60%, come ci dicevi tu prima, l'ascoltatore ha sicuramente ragione. Abbiamo visto detto che questo, però esatto, negli ultimi mesi è montata forte una propria protesta nei confronti di Equitalia. Allo stesso tempo bisogna dire però che sono state prese delle misure legislative per evitare un'eccessiva invasività di Equitalia nei confronti dei soggetti che ricordiamolo sempre sono debitori del fisco. Quindi, ecco. Però in qualche modo è stato previsto un galateo per cui non si possa fare ex abrupto, cioè insomma all'improvviso la ganascia fiscale in due secondi. Infatti sì, ricordiamo la protesta dei contribuenti di Cagliari, ma di tante altre piccole o grandi città nel nostro paese. Poi certo c'è l'altro problema importante che l'ascoltatore sollecitava, e che effettivamente molte aziende sono creditrici appunto della pubblica amministrazione, e magari lì certo quello è un problema gravissimo. Tu fai un lavoro, vinci un appalto, magari fai un lavoro, la pubblica amministrazione non ti paga per anni, qui non parliamo per due mesi, ma addirittura per anni, e magari su quel lavoro teoricamente fatto e teoricamente pagato, l'impresa ci deve pagare le tasse. Assolutamente sì. Guarda, è assurdo, sì. Quello che è venuto fuori proprio negli ultimi giorni, addirittura una PMI su due denuncia ritardi nei pagamenti che sono superiori all'anno. Ecco, si potrebbe studiare un meccanismo appunto di credito d'imposta per alleviare un po' noi da qua possiamo lanciare tutte le idee che vogliamo. Per dirtela tutta, in realtà una legge già c'è. Manca un decreto attuativo che consentirebbe un attimino di compensare debiti e crediti tributari in qualche modo, e agevolerebbe molte imprese. Ci guardiamo bene dal varare questo decreto attuativo. Iorio, allora, non so se vuole commentare tutto questo, poi andiamo alla società di comodo. Partiamo dalla società di comodo, c'è la previsione di uno scioglimento ad hoc, però va da sé che se viene sciolta per il futuro tutte le incombenze, gli adempimenti che richiede la finanziaria non ci saranno, quindi però ecco, se l'ascoltatore, come immagino, si riferisse al fatto di chiuderla e di sanare tutto, purtroppo non c'è questa forma di condono, di definizione, ecco, se la vogliamo chiamare così. Obiettivamente bisognerebbe distinguere l'evasione da dichiarazione dall'evasione da versamento. Voglio dire, è evidente che chi dichiara tutto e poi non versa ha delle maggiori scusanti, spesso di natura finanziaria e economica. Differente è la posizione di chi non dichiara per niente. Quello che non fa lo scontrino è un evasore, punto. Inutile che ci stiamo a giustificare. Quello che non fa la fattura è un evasore. Se uno dichiara tutto e poi per problemi finanziari non versa, certo lì forse una maggiore attenzione ci vorrebbe. Questo è evidente. Iorio, solamente per spiegarlo alle persone che magari vivono insomma di un piccolo reddito e tanta dimestichezza con anche la terminologia fiscale non ce l'hanno, che cos'è una società di comodo? Quando si apre? Quale contribuente la apre? Sostanzialmente, molto concretamente, la società di comodo è una società che, non rispettando una serie di parametri, viene costituita, che non stiamo stiamo qui a spiegare perché ci compliamo la vita, viene costituita per gestire sotto forma di società in realtà dei beni familiari e personali. Ad esempio, mi devo comprare la barca piuttosto che l'appartamento, anziché intestarla ad Antonio Iorio, la barca o l'appartamento perché non voglio intestarlo o per motivi fiscali, mi faccio costituisco una società e dico Immobiliare Iorio, ma in realtà l'Immobiliare Iorio non fa acquisto e vendita di immobili o affitto di immobili, cioè il mio immobile che è la mia casa, stessa cosa con lo yacht piuttosto che con le autovetture, da qui di comodo, per dire una società che non svolge l'attività propria di una società commerciale. E queste si possono aprire e chiudere con grande facilità? Ma aprire è sempre, basta andare dal notaio come qualunque società e si fa un SRL, chiudere altrettanto, e la stretta che c'è oggi è che c'è, diciamo, questo faro acceso dall'amministrazione perché metteranno sotto controllo i passaggi dei beni, quindi la concessione dei beni dalla società al socio, dalla società all'amministratore. Quindi se io ho comprato lo yacht non per affittarlo a terzi, quindi non faccio il charter nautico, ma per utilizzarlo io come socio, lo do al mio socio, quello sarà sotto il riflettore dell'agenzia. E quindi questo comporterà in capo al socio una maggiore attenzione, perché si dirà il socio ha la disponibilità di uno yacht, quindi possibilità di redditometro, in capo alla società l'impossibilità di dedurre il costo dello yacht, perché io non l'ho comprato per fare il charter nautico, ma per darla io al socio. Chiudo subito la parentesi sulle società di comodo, perché già ho capito che è un territorio piuttosto complesso che magari meriterebbe una puntata a sé. Andiamo alle altre questioni che interessano i contribuenti all'ascolto. Renzo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. In pratica credo che abbia già risposto, cioè volevo sapere le imposte dichiarate e non pagate per motivi economici vengono poi passate a Equitalia, la quale però ha dei sistemi molto pesanti di riscossione. Quindi faccio una domanda aggiuntiva a quella che volevo fare prima. Ma Equitalia ha il potere di bloccare anche i conti correnti, volendo? Allora, visto che peraltro la manovra predispone anche un potenziamento dell'attività dell'Agenzia dell'Entrata, adesso cercheremo di capire in cosa questa si concretizzerà. Però, tra l'altro, Giovanni Parente, per chi ha difficoltà a pagare le tasse tutte in una volta, comunque secondo le scadenze che il fisco ci chiede, c'è anche la possibilità di rateizzarle, però qualche volta neanche la rateizzazione è sufficiente a rasserenare il bilancio delle aziende che vogliono stare in regola. Certo, assolutamente, ad esempio un debito col fisco con Equitalia può essere rateizzato fino a 72 rate mensili. Il problema è chiaramente che bisogna, soprattutto se si è una società, bisogna sottostare a dei particolari indicatori e quindi bisogna, detto semplicemente, dimostrare che si è in difficoltà a pagare per poter accedere a questo. Ecco, contatto. Ma parlando proprio appunto del tema reato fiscale, reato tributario, dottor Iorio, per l'impresa o il contribuente che ha dichiarato tutto ma non ha la capacità economica di poter pagare appunto e versare le tasse, comunque per lui, per questo contribuente, scatta un reato? Sì, scatta il reato se omette di versare più di 50.000 euro e se le imposte non versate sono o l'IVA, ovvero le ritenute operate, le ritenute d'acconto. Quindi per capirci, se non verso l'IRPEF reato non ne commetto, se non verso l'IVA per somma superiore a 50.000 euro commetto reato, se non verso le ritenute dei miei dipendenti, dei miei lavoratori che ho trattenuto, commetto reato sempre per somma superiore a 50.000 euro. Ma se io riesco a dimostrare che questo non versamento è determinato dal fatto che sono in evidente difficoltà economica, il fisco non è più morbido, non c'entra. È molto difficile, è molto difficile perché abbiamo avuto qualche pronuncia isolata di qualche tribunale che intravedeva la causa di forza maggiore, però in realtà la Cassazione su questo è abbastanza perentorio. Abbiamo avuto, ripeto, forse in materia previdenziale c'è qualche pronuncia fuori, ma in materia tributaria fino ad oggi, diciamo, non c'è giurisprudenza consolidata nel dare diciamo delle concessioni a chi è in stato di bisogno, insomma, ma soprattutto delle attenuanti, ma il reato c'è sempre. E allora, i commercianti che non emettono scontrino fiscale, c'è un ascoltatore che ci scrive: Enrico, se è un esercizio continua a non emettere lo scontrino, per esempio il bar, e bisogna chiederlo ogni volta, che veramente fa arrabbiare a dire poco, come si può intervenire? Ho chiesto ad un finanziere, mi ha detto che non posso farci niente, devo solo sperare in un controllo a caso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Giusto, no? Il finanziere ha dato un'informazione sbagliata, perché Giovanni, possiamo ricordare, c'è un mio amico che invece ha fatto fare un controllo seduta stante dalla Guardia di Finanza nei confronti di un ristoratore che ovviamente non emetteva nessun tipo di scontrino e ricevuta fiscale appunto per tutti i clienti. Lui è uscito dal locale, ha chiamato il 117, mi ricordo male, il numero della Guardia di Finanza, ecco, e devo dire che raccolgono in maniera molto scrupolosa e dettagliata tutti i termini appunto della questione, per cui provateci e vediamo se funziona anche questo. Allora, andiamo adesso a Eugenio, da qui vicino, provincia Monza Brianza. Buongiorno Eugenio. Buongiorno a lei. Allora, senta, io sono un piccolissimo imprenditore nel ramo commerciale, ho 5 dipendenti, fatturo quasi 1.700.000 euro e sono, diciamo così, proprio nei sacrifici più enormi. Fatturiamo tutto fino all'ultima virgola perché operiamo con aziende di costruzione, con tutto quanto, non abbiamo la certezza del credito, cioè noi è sufficiente una piccola lettera di un avvocato che sospenda o comunque ci porti in causa per delle piccole stupidaggini. Poi, oltre a questo, ci c'è sono anche cose, per esempio, non lo so, un'azienda che pur di non pagarvi vi contesta in qualche maniera il lavoro, esatto, attraverso una dice non ha regola d'arte e blocca subito i pagamenti. Allora, noi abbiamo due cause dove quindi voi magari potete anche non fare la fornitura, però comunque tutto il lavoro che avete già fatto, per cui per voi certo, sì, il lavoro che non è stato remunerato. Esatto. Stiamo parlando di 100.000 euro, due clienti da 100.000 euro, siamo in ballo, cioè siamo in causa da circa un anno e mezzo, due, e non so, i giudici continuano a rinviare l'udienza e quant'altro, per cui noi abbiamo già pagato l'IVA perché abbiamo fatturato, abbiamo fatto tutto, ci abbiamo pagato anche nella denuncia dei redditi il plus del valore, certo, che ci competeva, e non abbiamo materialmente questi soldi, quindi noi ma su questo guardi abbiamo fuori quasi 250.000 euro, chi 5.000 euro, chi 10.000 euro, chi 50.000, non è una pratica diffusa, certo, è una pratica diffusa e siamo obbligati a temperare tutto quello che ci viene imposto. Ce la fa ancora? Non ce la faccio quasi più. Eugenio, tenga duro. No, non ce la faccio quasi più perché noi abbiamo i fornitori che se non paghiamo una ricevuta bancaria sospendono le forniture. Eugenio, grazie per la sua testimonianza. Giovanni, che ne pensi? No, l'unica cosa che posso dire è che le imprese sane, le imprese corrette devono fare di tutto per restare sul mercato. E in qualche modo il legislatore, chi fa le leggi, si deve accorgere della sofferenza in questo momento c'è per chi è onesto, per chi lavora dalla mattina alla sera. Io adesso non so, ma insomma so che Emma Marcegaglia, così come Vincenzo Boccia, per le piccole e medie imprese queste cose le vanno denunciando da tempo, ma mi pare proprio che ci sia una sordità totale attorno a queste pratiche diffuse ma davvero vergognose, ecco, chiamiamole così. Detto questo, Iorio, torniamo alle novità della manovra approvata appunto settimana scorsa, le novità che introduce. Voglio sapere quando scatteranno le manette e per chi evade quanto e come. Allora, le manette sostanzialmente prima scattavano per chi evadeva più di 103.000 euro. Oggi invece scatteranno per chi evade più di 50.000 euro. Quindi è in questo il senso che dicevamo, esatto, all'inizio, che si abbaglia la soglia del reato fiscale. Diciamo questo qui è il reato di dichiarazione inferiore, che è il reato più comune. Poi ci abbiamo, come diceva la scheda iniziale, la dichiarazione fraudolenta, che prevede invece degli artifici, non è la semplice evasione, che la cui soglia da 77.000 passa a 30.000. Per capirci, perché in questo periodo si è fatta molta confusione nei media su questi provvedimenti, tutto ciò che viene detto da superiore a 3 milioni di evasione si va in carcere, riguarda solamente la sospensione condizionale della pena, non è che non si va in carcere se uno evade di meno, cioè dire, se uno viene condannato può usufruire della sospensione condizionale se c'è una serie di requisiti. Tra i requisiti ora hanno messo che se io evaso più di 3 milioni di euro non posso beneficiare della condizionale, ma se no gli altri requisiti, perché per esempio sono recidivo, ho commesso un altro reato, sono stato condannato per altri reati superiori a 2 anni, e purtroppo io in carcere ci vado lo stesso anche se evado 51.000 euro, quindi non è che si va in carcere solo per chi evade somme superiori a 3 milioni di euro, ecco, giusto per essere chiari, perché altrimenti veramente in carcere non ci andrebbe nessuno, in realtà non è così, insomma. Certo, in che termini sono stati potenziati gli strumenti di accertamento per le agenzie delle entrate? Io peraltro la trasmissione sta già quasi chiudendo, per cui possiamo dare solamente dei flash su queste notizie, ma ci ritorneremo senz'altro. Iorio, Dunque la disinitalità sostanzialmente il maggiore potere che ha ora è che può utilizzare l'intestazione dei conti e dei depositi che prima invece servivano solamente per fare gli accertamenti, e, cioè dire, una volta che controllavano Iorio potevano sapere Iorio che conti aveva intestato a lui o ai suoi parenti. Oggi invece quell'intestazione li può utilizzare per selezionare i contribuenti da controllare, quindi nella fase prima del controllo. Questa è sostanzialmente la grossa innovazione, che vedremo se darà tutti questi frutti che hanno invocato per questa norma. Insomma. Mm-hmm. Giovanni da Andria, in 10 secondi ci deve raccontare quello che le è successo. Giovanni? Buongiorno. Rapidissimo, che stiamo chiudendo. Mi è successa una cosa, mi sono recato in un centro radiologico al che gli ho chiesto i costi dei raggi che dovevo effettuare. Sì. Mi hanno chiesto 80 euro con fattura, sì, 50 senza fattura. Certo. Al che io, al momento in cui li ho fatti, li ho ritirati, gli ho detto: senta, mi dà gentilmente la fattura. Ha fatto: no, ti devo fare la fattura su 80 euro. Ha detto: no, io gli ho dato 50 euro, lei mi deve fare il 20%, sono 60, e gli ho pagato 60 euro. Giovanni, beh, ci ha avuto un bel coraggio, ma questa capacità negoziale non ce l'abbiamo nessuno, perché comunque ci caliamo quasi tutti le braghe di fronte a queste situazioni, pur di non discutere. Grazie, comunque bravo naturalmente per esserci riuscito. In 10 secondi, Giovanni, voglio solo sapere i comuni che tipo di poteri di accertamento avranno, poi magari su tutto questo torneremo con altre puntate. I comuni, i comuni saranno invogliati a partecipare all'accertamento, cioè, insomma, non possono fare dei controlli ma non possono fare accertamento. Se parteciperanno la loro segnalazione andrà a buon fine, porterà un accertamento all'Agenzia delle Entrate, potranno incassare il 100%. Su tutti questi argomenti c'è un'altra guida molto importante lunedì prossimo, il sentore, che Giovanni Parente ricomincerà la settimana con noi anche la prossima. Grazie per essere stato con noi, grazie anche ad Antonio Iorio. Salvadanaio torna domani, a tutti buona giornata. We'll be right back.